1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, eccoci cari ascoltatori, vi ricordo di il tema che affronteremo oggi, i temi di cui parleremo più avanti alle 8:15, avremo ospite il presidente della commissione vigilanza RAI, Roberto Fico, questo alle 8:35, 8:40, mentre prima parleremo ancora di quello che è successo a Milano, gli sgomberi, le case abusive. Avremo ospiti Riccardo Decorato, che è stato ex vice sindaco a Milano e oggi è un consigliere regionale, e Marco Furfaro di SEL, della segreteria nazionale di SEL. Questo dalle 8:15. Insomma, i temi che trovate anche sviluppati sui giornali che andiamo a sfogliare. In questo mercoledì 19 novembre intanto vediamo come aprono i maggiori quotidiani. Il Sole 24 Ore apre sul Jobs Act, licenziamenti disciplinari, reintegro per casi specifici, questo è il titolo di prima pagina. Così sullo stesso tema apre anche Repubblica, intesa finale, così cambia il Jobs Act, e il Messaggero, licenziamenti con indennizzo, mentre La Stampa, via libera al Jobs Act, sciopera anche la UIL, tensioni sulla manovra. L'attualità internazionale, la strage a Gerusalemme è l'apertura del Corriere della Sera, terrore in sinagoga a Gerusalemme, e così anche Avvenire, strage in sinagoga. Anche il Manifesto apre su questo tema, il titolo è La catena dell'odio. La rivendicazione del fronte per la lotta alla Palestina, il mondo condanna, Hamas in festa, Netanyahu attacca Abu Mazen promettendo mano pesante dopo l'attentato di ieri. Il Fatto Quotidiano invece torna sulla vicenda dell'aereo taxi di Stato, l'ENAV in guaia la Pinotti, è la vicenda del ministro della difesa e di un aereo preso qualche tempo fa. Per Libero invece, sgomberiamoli subito, guerriglia per le case occupate, e il giornale, guerriglia farsa, sinistra irresponsabile. Ecco, parto da qui, dalla lettura dei giornali, perché ieri ci sono stati scontri a Milano, prima per lo sgombero di due centri sociali, al Corvetto, che è un quartiere, e poi un blitz antagonista nelle vie del centro, racconta il Corriere della Sera. Al di là della cronaca che trovate un po' ovunque, segnalo che il sindaco di Milano Pisapia fa un paio di risposte, una piccola intervista sul quotidiano nazionale, sul Giorno. A pagina 3, dopo l'incontro col prefetto, il sindaco Pisapia dice: finalmente ci vuole un passo avanti su un tema fondamentale che crea tensioni nella città. È importante ribadire il concetto: c'è grande bisogno di case, ma c'è un dovere di legalità. Su questo bisogna essere chiari. Peraltro, sindaco che, come ricorda Vittorio Feltri oggi sul Giornale, in realtà non la pensava così in campagna elettorale, questo almeno racconta il giornale. Quando Pisapia teorizzava occupare le case è legittimo. Il sindaco da sempre dalla parte degli abusivi, racconta il giornale. Il risultato, la città in mano agli antagonisti. Racconta Vittorio Feltri, ricordiamo quando in campagna elettorale, sono a pagina 3 del giornale, ci fu una frase di Pisapia che fu questa: occupare le case è un atto di legittima difesa da parte di chi è in stato di necessità. Il senso, insomma, racconta Feltri, è questo: se rubi una bicicletta o dai del fesso a un giudice o a un politico, sei un criminale; se rubi un alloggio, sei un povero Cristo che, avendo agito per combattere la miseria, non meriti castigo. Tra l'altro, anche Libero punta molto, il titolo di prima pagina è questo, sgomberiamoli subito. Tra l'altro Libero racconta a pagina 2 una vicenda che non riguarda Milano ma riguarda Campo San Martino in provincia di Padova. La racconta Alessandro Gonzato. I romeni occupano, il giudice li giustifica, è colpa del disagio. Questo succede in provincia di Padova. Campo San Martino, per l'appunto, dove, racconta Libero, hanno occupato abusivamente una villa di 5 piani. Per giorni, approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno mangiato, bevuto e dormito a sbafo. Serate davanti al camino, alcol, sigarette, fino a quando i carabinieri non hanno interrotto il soggiorno e gli ospiti, 3 ragazzi rumeni e una connazionale, tutti tra i 25 e i 30 anni, sono stati portati in caserma, denunciati per occupazione abusiva, furto d'acqua, luce e gas. Dopo qualche ora il magistrato di turno li ha rimessi in libertà con questa motivazione: disagio sociale. Sono poveri e senza fissa dimora. Giusto il tempo di tornare in strada e subito hanno provato a rientrare nella stessa villetta con tanto i sacchetti della spesa in mano. Se non che qualcosa all'ultimo deve averli insospettiti, si sono allontanati come se avessero avuto la certezza che presto sarebbero tornati a rilassarsi e chiacchierare amabilmente davanti al fuoco, come poi è stato. E questo, insomma, è il racconto che viene fatto a Libero. Su questo tema però, cioè linea dura oppure comprensione, parla il prefetto di Milano e le parole che fa, e le parole che rilascia al Corriere della Sera, nell'intervista di Gianni Santucci, trovate a pagina 3, anzi scusate, a pagina 21, sono parole abbastanza di comprensione. Sentite il prefetto di Milano: no alle squadre antioccupazione, no a blitz o task force per liberare le case occupate. In prefettura, con l'impegno di tutti, abbiamo firmato un piano che fa chiarezza sugli obiettivi. Le attività del gruppo che ha lavorato in queste settimane non trovano il loro fondamento nella repressione tout court. Quindi no alla repressione dura e pura. Teniamo presente un principio: l'abusivismo non è un problema di sicurezza, dice il prefetto. Non è un problema di sicurezza, o meglio, non è soltanto un problema di sicurezza, prima di tutto è una questione di disagio sociale con aspetti che toccano anche la sicurezza. Quindi prima parliamo di solidarietà, di socialità, prima di parlare di legalità. Insomma, un prefetto che si potrebbe incasellare nella linea morbida rispetto alla linea dura, per esempio, di Maroni, della Lega, e di alcuni giornali come Libero, il Giornale, che titolano "Vanno fermati subito e sgomberati". Ne parleremo alle 8:15. Invece, che è successo a Roma? Avete sentito? Tifo da stadio per il sindaco Marino, che finalmente sul Panda Gate ha detto la sua versione in aula dopo aver fatto qualche intervista. Comunque ha sventolato i bollettini delle multe che ha pagato per un 1.000 euro abbondanti, anche se dice: non avrei neanche dovuto pagarle, visto che io ho diritto a 4 pass per entrare nella zona traffico limitato, e questo come sindaco ha totalmente ragione. Insomma, sì, Marino dice: non mi dimetto. Contestazioni, lui che dice in aula parla per 50 minuti, racconta: la mia Panda ormai è diventata più pericolosa di un cacciabombardiere nordcoreano, secondo alcuni. Il Giornale che dice che in realtà c'è un nuovo giallo, Massimo Malpica, pagina 5. Ora è un furgone che lo inguaia. No, vi prego, dalla Panda al furgone. Vabbè, comunque, qual è la storia di questo furgone? Il nuovo caso è sulla bici, perché l'atterrebbe su un minivan e poi la usa, a uso e consumo delle telecamere, per pochi metri, ma in realtà si sposterebbe su questo minivan. C'è il mistero del minivan, dopo il mistero della Panda. La verità la scrivono più il Messaggero e Repubblica, cioè che il caso è eminentemente politico, e cioè di conflitto tra lo stesso Marino e il suo stesso partito, il Partito Democratico, che gli chiede una svolta radicale. Lui promette un cambiamento di giunta di un paio di persone, mentre il PD vuole una svolta radicale. Sentite cosa racconta Giovanna Vitale su Repubblica, pagina 12, il durissimo faccia a faccia tra Marino e il vice segretario del PD, Guerini. Guerini che gli chiede di cambiare radicalmente e Marino che risponde: ma sono al lavoro per cambiare un paio di assessori. Guerini rimane interdetto, ci prova a obiettare che gli sembra un po' poco, ci vuole un cambiamento radicale, e Marino risponde: ma scusa, io ho 4 assessori del PD, li ho fatti dimettere dal loro posto di lavoro quando sono entrati in giunta, come faccio a cacciarli? A quel punto la risposta di Guerini è gelida: se il problema è questo, procedi pure. Come dire, un dialogo tra sordi, lo definisce Repubblica. Marino che tiene duro sulle sue posizioni, il PD che vorrebbe un cambio radicale. Chissà come andrà a finire politicamente se Marino verrà abbandonato definitivamente dal suo partito, come qualcuno scrive già sta facendo. Prima del premio Mani sul Volante, due chicche di cronaca. Umberto Tozzi, Gloria, sì, quello lì. Condannato a 8 mesi di carcere, pena sospesa, per 800.000 euro di evasione fiscale. Lo racconta il Messaggero con Adelaide Pierucci a pagina 13. Ha cambiato la residenza prima in Lussemburgo, poi a Monte Carlo. Insomma, sarebbe stata considerata una furbata da VIP. La Corte d'Appello di Roma lo condanna a 8 mesi di carcere, pena sospesa però. E 800.000 euro sarebbe l'evasione contestata dal 2002 al 2005, 3 anni. Mentre Don Mazzi ha sbroccato, letteralmente, dopo l'esondazione del Lambro, che lo ha costretto a spostare la sua comunità Exodus dal Parco Lambro, per l'appunto, nei giorni scorsi, è letteralmente uscito di testa, cioè nel senso, ha detto, sentite cosa ha detto Don Mazzi, in un'intervista a Vita, spero che il Lambro e il Seveso esondino durante l'Expo, con tutto bloccato, metropolitana in tilt, quartieri inagibili. Voglio godermi la scena. Don Antonio Mazzi, un po' di carità cristiana, non si augura agli altri il male che avete subito voi, il male peraltro dovuto, non so, alla natura, alle cose, l'esondazione, ai fiumi. Comunque, Don Mazzi, vorrei vedere l'Expo sommerso dall'acqua con tutta Milano bloccata e inagibile e godermi lo spettacolo e la scena. Vabbè, siamo al momento del premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa più di questa giornata sono le spese folli, le fatture non pagate, l'Europa del rigore va in rosso. Gianni Calessin racconta in una straordinaria pagina sul Giornale, a pagina 7, che Bruxelles, sì, loro, il tempio del rigore, quell'Europa lì, volevano aumentare dell'8% il proprio budget, volevano 11,1 miliardi in più per coprire il bilancio del Parlamento europeo. Bravi, bravi quelli del rigore. Alessandro Milan, il tuca tuca dell'informazione. Beh, tuca tuca non è male, eh? Come cantava la cacchiera, la Carrà? La Carrà, il tuca tuca. Bene, allora, il Jobs Act, c'è stata una svolta, un primo sì al nuovo articolo 18 come titolo del Sole 24 Ore, pagina 3, o se volete un accordo politico, il governo trova la mediazione, questo è il titolo del Corriere, a pagina 8, e l'intesa sui licenziamenti, questo per Repubblica, pagina 6, il reintegro soltanto in pochi casi. Allora, l'articolo che spiega meglio nei dettagli con esempi pratici lo scrive il Sole 24 Ore, lo scrive Claudio Tucci oggi a pagina 2. La reintegra in specifici casi disciplinari. Cosa succede se un'azienda sopprime una posizione di lavoro perché è in crisi o decide di cambiare modello organizzativo, per esempio esternalizza l'ufficio paghe o l'assistenza informatica? Succede che se il licenziamento per motivo economico e organizzativo viene dichiarato illegittimo, per il lavoratore con contratto a tempo indeterminato a tutele progressive scatta un indennizzo certo e crescente che varia in funzione dell'anzianità di servizio. Qui il successivo decreto delegato dovrebbe prevedere un doppio binario, un indennizzo monetario fino a un massimo di una mensilità e mezza per ogni anno di impiego, con un tetto di 30 mensilità oltre il quale il giudice non potrà andare, oppure la possibilità per il datore di lavoro di versare spontaneamente un'indennità al lavoratore licenziato. A questo punto, se il lavoratore rifiuta la conciliazione, deve restituire la somma ricevuta e impugnare il licenziamento entro un termine breve e certo, altrimenti questa conciliazione si intende raggiunta per comportamento concludente. Questo è un esempio pratico che fa capire, ci sono altri esempi pratici su quello che è l'accordo trovato in maggioranza. Renzi dice: non si tolgono i diritti, si tolgono invece gli alibi. mentre non la pensa così la minoranza del PD, incarnata soprattutto da Stefano Fassina, che oggi fa un'intervista alla Stampa, pagina 3, dice: si è data così agli imprenditori la libertà di licenziare e pagheranno i giovani. Molti, tra l'altro, dice Fassina, già sollevano dubbi di costituzionalità. Ai ai, quando si tocca la costituzionalità significa che qualcuno già pensa di fare dei ricorsi, magari raccogliere le firme per abolire la legge, fare referendum o fare ricorsi proprio alla Corte Costituzionale. In ogni caso, in concomitanza con questo accordo politico, poi vediamo se reggerà in Parlamento questo accordo politico sul Jobs Act, c'è da dire che invece la CISL rompe il ghiaccio e dice: noi non sciopereremo con la CGIL e la UIL il 5 dicembre. È un'intervista alla segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, su Repubblica, pagina 7, con Elena Polidori, a fare chiarezza su questo. La CISL non farà lo sciopero generale con CGIL e UIL. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Per la CISL gli scioperi generali si fanno solo su obiettivi precisi, lo diciamo da sempre, e in questo caso sarebbe solo inopportuno e inefficace. La motivazione è troppo debole. Il Jobs Act non è un obiettivo definito, chiede Repubblica. No, perché quelle norme stanno cambiando in positivo e in sede di decreti attuativi vedremo di migliorarle ancora. Insomma, la CISL si defila dallo sciopero. Mentre, a proposito di economia, occhio che lunedì è il giorno in cui l'Unione Europea dovrà decidere il sì o il no sulle manovre che sono state fatte nei paesi dell'Unione Europea. Ovviamente si guarda la legge di stabilità italiana. Secondo retroscena di Repubblica, a pagina 9, a firma Alberto D'Argenio, l'Unione Europea va verso un sì alla legge di stabilità italiana, la svolta soft di Bruxelles verso il sì alla nostra finanziaria. Il no di Juncker a nuove richieste, dunque si va verso un via libera europeo alla manovra del governo Renzi. Il grande giorno sarà lunedì, quando la commissione di Juncker emetterà le opinioni sulle finanziarie dei paesi dell'eurozona. Verrà approvato anche il piano di investimenti da 300 miliardi e l'indiscrezione porta a un sì nei confronti della legge di stabilità. Vabbè ragazzi, siamo nell'81esima settimana decisiva per la riforma elettorale, ancora c'è una pagina del Corriere, Dino Martirano a pagina 6, sul dibattito sulla legge elettorale. Apro parentesi, domenica scorsa ero alla Borsa Italiana nell'ambito di Book City a fare una rassegna stampa dal vivo, vi ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, eravate tantissimi, ho fatto questa domanda iniziale: quanti di voi seguono con passione la politica per come è raccontata sui giornali? C'erano diciamo 150 persone, mani alzate, una ha detto: io seguo con passione. Ah, lei segue con passione? Sì, ma perché così capisco che mi prendono in giro. Ah, ecco, questo lo segue, l'unico che ha alzato la mano segue la politica sui giornali, per come è raccontata sui giornali, questo chiacchiericcio per capire che ci prendono in giro. Molto bene. Comunque, abbandoniamo la politica, ci sono tante notizie di cronaca. Alcune le abbiamo già viste, altre sono queste. Ricordate i licenziamenti in massa all'Opera di Roma, Teatro Lirico, con tutte le polemiche del caso il 2 ottobre? Abbiamo scherzato e siamo contenti. Nessuno vuole, come al solito, mettere nessun lavoratore per strada. Ma la stampa racconta il bluff del Teatro dell'Opera. Niente licenziamenti, ma addio agli scioperi. Cioè è stato fatto un nuovo accordo di tutte le sigle sindacali che hanno salvato i 182 componenti dell'orchestra e del coro, tutti licenziati con annuncio a ottobre. Anche il Sole 24 Ore con Giovanna Mancini a pagina 17 racconta: salvi il coro e l'orchestra dell'Opera, l'intesa tra il Teatro Romano e i sindacati scongiura così, ed è un bene, ripeto, 180 licenziamenti, si risparmiano in più 3 milioni nel biennio 2015-2016, tanto che Francesco Merlo su Repubblica dice: e mori vogliamo muti. Ricordate il maestro Muti che ha abbandonato anche perché dice non si può più lavorare, sciopero eccetera, e Francesco Merlo dice: adesso però all'Opera di Roma, visto che tutto è come prima, gattopardescamente, allora rivogliamo il maestro Muti. Mentre per quel che riguarda La politica, insomma, il ministro della difesa Pinotti viene ancora presa di mira per questo volo militare che ha preso, e la prima volta lo scrisse il Fatto Quotidiano. Ieri il TG7 ha mostrato dei documenti nuovi e il Fatto Quotidiano oggi ci ritorna. Questo Falcon 50 preso di ritorno da un summit internazionale che l'ha riportata a Genova, credo il 5 settembre del 2014, Roma-Genova, insomma, il Fatto Quotidiano attacca. Pinotti, il volo su misura. Ci sono questi nuovi documenti dell'ENAV che fanno dedurre, scrive il Fatto, che questo volo è stato fatto proprio per lei, per portarla a casa. Insomma, un aereo taxi di Stato. Tra l'altro, a una domanda precisa al procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, e cioè: il ministro Pinotti, caro procuratore, è indagato? Il procuratore ha risposto: su questa vicenda non commento. Per il giornale è una non smentita che potrebbe presupporre addirittura che ci sia un'indagine in corso. Comunque, per il Fatto Quotidiano, Pinotti, il volo su misura, a pagina 3, ed è anche l'apertura del Fatto Quotidiano. Ma a proposito di indagini, saluto Mauro Meazza, buongiorno, che indaga tutti i giorni sul Sole 24 Ore. Ah, buongiorno, temevo il peggio, devo dire. Buongiorno, no, Alessandro, da come è ripartito, sì, con le indagini, eccetera. Però io di solito prendo degli aerei di linea normali, vorrei precisarlo così. Economy. Sì, spesso economy, certo, quando, però se no anche il treno va bene uguale. Perché spesso? Qualche volta in business? Sei un privilegiato? Se lo offri tu volentieri, paghi tu. No, perché magari se hai delle disponibilità, volevo segnalarti che oggi sulle 24 ore segnaliamo che potrebbe aprirsi questa finestra per questa cessione del 5, forse 6% di Enel. Sai che se n'era parlato di questa forma, certo. Tra l'altro è uno dei passaggi che dovrebbe garantirci anche degli introiti dal punto di vista del bilancio pubblico. Bene, oggi ne riferiamo sulle pagine di Finanza e Mercati. Appunto, la finestra potrebbe aprirsi nelle prime due settimane di dicembre, quindi i tuoi famosi due urini con cui via ci canzoni ormai da tempo, ecco, potresti mettere lì, ma non è sollecitazione, mi raccomando. No, l'investo lì e non per il tuo biglietto in business class, ok? No, ecco, questo può essere una scelta che fai e ne hai tutto il diritto. So che ti sei anche occupato di contratti poc'anzi, ti segnalo, parliamo anche oggi su Sole 24 Ore del contratto, della complessa trattativa sul contratto dei bancari. Le cose potrebbero sbloccarsi in qualche modo, potrebbero svoltare settimana prossima, ne riferisce Cristina Casadei, oggi non sulle pagine di norme e tributi, come hai visto, ma nelle pagine invece di impresa e territori. E poi c'è questa sorpresina dell'IMU sui terreni. L'IMU si pensava non fosse dovuta in quasi 4.000 comuni, poi è cambiata una norma e adesso bisogna pagare a dicembre in buona parte di questi comuni che si pensavano, che prima erano esenti. Com'è il titolo di prima pagina? Stangata sui terreni, ecco. Sì, diciamo, l'abbiamo toccata piano, come si dice in questi casi, però d'altra parte la sintesi del titolo, ohimè, è brutale, ma è assolutamente efficace, corretta. Tutti i dettagli naturalmente li trovi nelle pagine di norme e tributi. Oggi è un giorno per noi importante perché parte il quotidiano digitale degli enti locali della pubblica amministrazione. A proposito di IMU, appunto, di tasse locali, parliamo anche di tasse locali in quotidiano degli enti locali della pubblica amministrazione. Poi ti voglio dire che sta un po', ti ricordi che c'era tutto questo progetto di rivedere il codice della strada? Sì. Bisognava farne una versione più snella. Sta rallentando, non riescono a far fissare il calendario delle audizioni. Capita. Sai cosa sarà successo, Alessandro? Cosa? Avrà trovato traffico. Alessandro Milan, il sindaco dell'informazione. Il sindaco, eccolo qua. Allora, alcuni giornali, nello specifico il Fatto Quotidiano e Libero, si concentrano sui redditi di Beppe Grillo, che ieri li ha resi noti. Quali sono i redditi del 2013? 147.531 euro. Insieme ad alcune proprietà immobiliari che sono la villa Marina di Bibbona, un appartamento a Rimini, Pellegrini, un box in Val Tournanche, il 98% dell'immobiliare di famiglia, un appartamento in Francia a Megève e uno in Svizzera a Lugano con posto auto e cantina. Vabbè, questo per la soddisfazione di chi vuol sapere quanto è il reddito di Grillo. Mentre il Corriere della Sera è un piccolo trafiletto, pagina 27, va a intervistare quella dirigente della regione Liguria che ieri Libero scriveva è stata rimossa perché non ha dato una concessione, un via libera a una costruzione di una Coop sul Bisagno. Questo in estrema sintesi. Riccardo Bruno del Corriere della Sera va a intervistare questa dirigente della Liguria. Ho detto no al cemento sul Bisagno e mi hanno trasferita all'ufficio per la salute degli animali. Quindi conferma in toto questa dirigente. Si chiama Nicoletta Faraldi, 62 anni, esperta di diritto, dirigente della Liguria. Ha saputo in un pomeriggio il 6 novembre tra un'alluvione e l'altra di Genova che non sarebbe stata più il capo del delicato settore di valutazione impatto ambientale. Trasferita dopo 8 mesi alla sicurezza alimentare e sanità animale, materie di cui non mi sono mai occupata, dice lei. Il motivo? Ho chiesto al direttore generale, mi ha risposto che è stata una decisione politica. Me lo ha confermato anche il segretario generale. Io so solo di aver fatto il mio lavoro tecnico e non ho alcuna preferenza partitica. Le ragioni vanno cercate nella sua attività, ne è convinta la consigliera regionale Raffaella Della Bianca. Guarda caso, denuncia Della Bianca, una quindicina di giorni prima questa dirigente ha bocciato il progetto che sta a cuore all'amministrazione, cioè il centro commerciale proposto dalla Galassia Coop nell'area del Bisagno. Ora, per la verità, la dirigente, leggendo, non è che conferma è stato per questo, dice però io sono stata rimossa in un giorno e messa a fare una cosa di cui non mi sono mai occupata, la salute degli animali. Va bene, ma a proposito di maltempo, tanto è arrivato ormai la soluzione, quella del parroco di Brescello, Don Evandro Gherardi, che ha preso il Cristo e lo ha portato in processione, proprio come Don Camillo, per pregare insieme a 500 fedeli in un replay del film di Guareschi, per pregare, insomma, contro la piena del Po. O Signore, aiutaci tu. Questo è il senso, quindi chissà se prima delle opere potrà l'Altissimo, prima delle opere da fare, oltre le opere da fare. Vabbè, l'attualità internazionale ovviamente è tutta legata al oggi sui giornali, al terribile attentato avvenuto ieri in una sinagoga a Gerusalemme, oltre alla cronaca. E alle possibili già analisi di quelle che possono essere le ritorsioni dopo che il premier israeliano ha promesso, cioè una risposta molto molto dura. Ci sono anche le interviste, vi segnalo quella allo scrittore David Grossman che trovate a pagina 4 di Repubblica, intervistato da Fabio Scuto, racconta come si sia sull'orlo del precipizio. Ormai il conflitto è diventato tribale, stiamo precipitando nella dimensione del fanatismo e dell'irrazionalità, ormai siamo sull'orlo dell'abisso. Mai finora il terrore aveva passato le porte sacre di una sinagoga, chiede Repubblica. E risponde David Grossman: è un profondo dolore e rabbia che si mescolano per l'assassinio di persone innocenti nel momento della preghiera del mattino, colpiti a casaccio, alla cieca, solo perché israeliani ed ebrei. Ma sento anche una grande frustrazione nel vedere giorno dopo giorno nuove vittime dalle due parti, uccisi, feriti, investiti o rapiti in questo circolo vizioso di violenza e odio che coinvolge nella sua spirale sempre più gente, si sta trasformando da conflitto politico in conflitto religioso, fondamentalista, e di conseguenza un conflitto irrazionale e primordiale. E alla domanda se sia in arrivo una terza intifada, risponde Grossman: da persona che è nata e vive qui da molti anni conosco molto bene i meccanismi della violenza, come sia facile scatenarla, quanto sia difficile quietarla. La tradizione ebraica vieta agli ebrei l'ascesa al monte del Tempio dove oggi sorgono le moschee. Nel rispetto di questa tradizione, che non è legge di Stato ma un precetto religioso, si è venuto a creare uno status quo che è rispettato anche dai governi dello Stato di Israele, mentre Ariel Sharon, con la sua passeggiata provocatoria nel 2000, ha scatenato la seconda intifada. Oggi vediamo che nuovi esponenti politici di destra salgono sulla spianata con l'intento preciso di creare una provocazione. È un atteggiamento bellicoso. Così David Grossman, intellettuale scrittore su Repubblica. Vabbè, che devo dire? Cioè, se una bella donna, una bella ragazza, a 26 anni, vuole sposare e fa, e lo fa, e sposa l'ottantenne serial killer Charles Manson, andando in carcere, oh, ma che devi dire? Sì, si è conquistata un po' di titoli di giornali. Mia figlia sposa Charles Manson, urla questo disperato padre americano. Manson, il killer satanista, trova l'anima gemella. Si chiama, come diavolo si chiama sta rimbambita? Afton Elaine Burton ha sposato Charles Manson in carcere. Auguri, figli maschi. Vabbè, siamo al momento conclusivo. La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, dopo che Alessandra Moretti ha detto che anche a sinistra si va dall'estetista, ormai ci si fa la ceretta, quelle cose lì. L'urlo delle nuove donne PD sul giornale, Roberto Scafuri, lasciateci essere anche belle. E allora, dalla sinistra di Livia Turco, la Camusso, alla Rosi Bindi, alla sinistra della Moretti, della Boschi, della Madia! Ma chi se ne frega!